veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Madonna, mi stanno sul cazzo tutti, mi sta sul cazzo il capo, mi sta sul cazzo l'amorosa, mi stanno sul cazzo i colleghi, gli amici, mi stanno sul cazzo tutti, ma dalle 6:30 alle 9 mi sento un dio. Ciao Peppe, mi dai il numero di quell'idiota? Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora ragazzi, un uomo è morto come sapete, ma a tutti quelli, un uomo di colore, ma poteva essere di qualsiasi colore, anche se è importante in questo caso, perché un uomo nero cui è stato dato il cui è stata insultata la fidanzata con la parola scimmia e forse altro ancora. Però a tutti quelli che oggi se la prendono con i mandanti leghisti, e sono tanti, da Roberto Saviano, altri scrittori, Gad Lerner, che addirittura dice bisogna fare la Chienghe ministro. Sì, ho per prontamente dare... ritwittato pochi secondi fa, ovviamente. Cioè tu sei d'accordo? Cioè per dare un segnale Diciamo prima del grande Gad lo dissi già da tempo, sì, sì, e sì. Ho ritwittato una risposta efficace al razzismo, richiamare il governo Cecil Kyenge ministro dell'interno. Bene, così l'Italia cambia, certo, non c'è dubbio. Così si dà un segnale fortissimo certo. Di integrazione, perché Cecil Kyenge una è italiana, puttanata. Come una puttanata. Sai, beh, certo, è italiana come tu ben cioè sai. Praticamente proponi una puttanata. Sarkozy, ma non mi dilungherò, fece ministro per l'integrazione un franco algerino. Ma mi sembra, quindi, non sia più presidente il signor Sarkozy, eh? Mi risulta che non sia più presidente. Vabbè. Fece ministro per l'integrazione. Allora però, sì, ho capito benissimo, ma avanti, a tutti quelli che se la prendono con i mandanti leghisti dell'odio, della xenofobia diffusa in tutto il paese, che sembra di stare in un clima da Ku Klux Klan qua. Cioè, secondo alcuni in Italia ci sarebbe il Ku Klux Klan. Se uno dovete ascoltare per carità, che chiamano qua. No, secondo, ma che c'è? Quelle sono singole persone. Allora, secondo c'è? Quelli che sostengono che c'è un clima di odio, a questi qua che dicono c'è il clima di odio creato dai razzisti, le parole, la scimmia, eccetera, io voglio dire solo una cosa. Siccome siete sempre giustamente attaccati ai fatti, attaccati a quello che è successo, esistono diverse testimonianze dei fatti di fermo, ridente paese sulla costa marchigiana. Per esempio, c'è una super testimone che più avanti cercheremo, che si chiama Pisana Bachetti, la quale sostiene: ho assistito alla scena, ho visto che il giovane fermano, prima di sferrare il pugno, è stato letteralmente assalito dalla vittima e da sua moglie, lo hanno picchiato per 4 o 5 minuti e lo hanno colpito anche con il palo di un segnale stradale. Quel povero ragazzo nigeriano, prima di cadere a terra per un pugno subito, si è reso protagonista di un vero e proprio pestaggio del 39enne fermano. Per 4 o 5 minuti è stato attaccato simultaneamente dal giovane di colore e da sua moglie. Lui addirittura lo ha colpito con un segnale stradale trovato nei pressi, facendolo cadere a terra, e poi hanno continuato a picchiarlo. Quando ho visto quella scena, ho chiamato la polizia perché temevo per l'incolumità del 39enne fermano, che ha reagito con un colpo, purtroppo per la vittima, ben assestato. Qualcuno ha cercato di intervenire, ma è stato preso a scarpate dalla moglie del giovane di colore. Casualmente sono giunti sul posto gli agenti della polizia municipale, perché nel frattempo la moglie di Emmanuel aveva fatto una telefonata ed erano arrivati una quindicina di nigeriani pronti ad entrare in azione. Allora, questo racconta una testimone. Allora, mi vuoi dire che se uno ti dice scimmie eccetera, poi è autorizzato a prendere un palo, secondo quello che dice questa signora, eh? È autorizzato secondo te, David? È autorizzato? Nessuno dice questo. Certo che questo signore scappava da un posto che si chiama Boko Haram, dove in Nigeria, sì, gli estremisti eccetera, poi che è una dittatura nigeriana dove non è vige il codice di Einaudi, ma che c'entra questo, scusami, che della c'entra? Violenza, ma cosa allora, c'entra? Uno, per essere educato alla democrazia, a capire che aveva altri strumenti anche per cosa c'entra, non ho capito. C'entra, e come? Perché c'entra. Va bene, è autorizzato dunque. No, non è autorizzato, perché nulla, la violenza no, non è mai ma per dire autorizzato, poi signore, il morto è lui, il morto ragazzo, è il nigeriano, perché rimettiamo le cose in ordine, è morto il ragazzo nigeriano. Ma questo morto. Non c'è dubbio. Sì, morto. Perché è morto? Perché c'è stata una rissa generata da che cosa? Da un simpatico ultras di estrema destra, sì, che ha apostrofato la moglie della signora scimmia. Questi sono i fatti. Sì, poi d'accordo. Il palo, chi l'ha preso, quello. Ah, non ti interessa. Non no, ti interessa. Mi interessa molto, mi interessa moltissimo. Ah, ecco, ti interessa. Oggi il focus del cadavere bollente. Oggi il focus, che vuol dire? I fatti sono i fatti. Il cioè... focus, non quello dell'economia, ma il focus sì, di cui sì, stiamo parlando. Sì, dell'economia sì. Se ne occupa l'ottimo Barisoni, vice direttore sì, della radio. Sì. Noi ci occupiamo di un altro focus. Il focus oggi è un cadavere di colore nero. Ah, per te, dunque, come è nata la cosa non ti interessa a te. Va bene, d'accordo. È nata dal fatto che un signore, un ragazzotto di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine per essere attività, un ultra, eccetera. Per attività non esattamente pacifista all'interno, assolutamente, degli stati, questo non c'è dubbio. Non andava dentro, assolutamente, ha detto scimmia di merda, ma... una. Benissimo, ottimo. Benissimo. Essendo questo signore già protagonista. Vabbè, già, ma questo non vuol dire niente. Quindi c'è un precedente. Quindi il signore protagonista già di allora, fatti allora? Illeciti. Bene. Scoppia una rissa perché il ragazzo di Boko Haram è scappato dalla dittatura. Dunque è autorizzato a reagire e anche altri strumenti per difendersi. Ah, va bene, tu paese. Dici. Sì. E quindi questa non è sicuramente l'attenuante, ma ti fa capire quanto sia utile uno il mediatore culturale per far capire a queste persone che quali mediatore sono i loro diritti. Ma adesso cosa c'entra il mediatore questi culturale? Appena arrivano qui, anziché essere segregati in centri vabbè, di accoglienza, abbiamo capito, devono essere aiutati, gli deve essere insegnato l'italiano, gli devono essere insegnati i loro diritti, eccetera. Dopodiché allora, non... c'è stato casino in aula oggi, in Parlamento, perché qualcuno sembra avere minimizzato quello che è successo. No, Giovanardi non spiega nulla come al solito, semplicemente questo. No, beh, Giovanardi, ti devo dire la verità. In realtà ha detto una cosa diversa. Sì, sì, ma te lo faccio ascoltare, Giovanardi. Ma in realtà sì, ha detto: non sappiamo quello che è successo, che è la verità. Cioè, no, Giovanardi. No, ma Giovanardi, senti Giovanardi, sentilo, sì, sentilo. Giovanardi, chi è quel Giovanardi, peraltro? Giovanardi è l'ex dell'NCD, adesso non è più l'NCD. Giovanardi, perché se no mi dice qualcosa, forse perché mi ha notificato qualcosa. Ah, a casa. Tu dici di un secolo passato. Non dici. Mi ricordo chi è Giovanardi di per sé. Giovanardi è quello che Giovanardi ha fatto la legge, quella sulla. Giovanardi. Sì. Quello sulla... Oddio, sai che io penso che dormirò stanotte anche se contro la droga, contro le unioni gay, ah, te lo ricordi? È un politico. Quello che ti vuole portare in tribunale, ti ricordi? Ah, adesso ho capito chi è, sì. Sì, sì, te lo ricordi? Senatore, credo, senatore. Sì, comunque, Giovanardi. Anche vivere senza. O deputato, sentiamo. Adesso non mi ricordo, Giovanardi. Sì, sentiamo. Io non so cosa è successo ieri, poi impareremo e approfondiremo l'accaduto. E può essere verissimo che un balordo ha fatto una cosa terribile, ma trovo sgradevole, ma un pazzo, un balordo, un violento, chiunque l'abbia fatto. Senatore Giovanardi. Allora, se permettete, io trovo... Senatore Giovanardi, le avevo dato la parola se voleva associarsi alla commemorazione. Se lei non sa di che cosa stiamo parlando, non credo che... Sono ancora libero di dirlo io in questo Parlamento. Senatore Giovanardi, la prego di interrompersi. È stata data... Senatore Giovanardi, la richiamo all'ordine, non ha la parola. Senatore Carraro, prego. Senatore Giovanardi, la richiamo per la seconda volta. Senatore Giovanardi. Allora, tutti gridano fuori, fuori, fuori, semplicemente perché Giovanardi, adesso a me non me ne frega niente di difendere Giovanardi, dice la semplice verità, che non sappiamo quello che è successo, perché non lo sa nessuno, nemmeno la Lanzillotta che è lì, che è una dei vicepresidenti, non lo sanno, perché non lo sa nessuno, ci sono altre testimonianze, eccetera. Ma io non ho capito, perché vi fanno così schifo i fatti? Cioè, siete sempre così attaccati a questa roba qui, vi fanno, in Parlamento discutono nel nulla, perché non sanno un cazzo, perché non si sa bene sanno quello che si legge dai giornali, appunto, che spesso non è vero, già da ieri, cioè... un ascoltatore ieri ci ha chiamato e ci ha detto, guarda, sì, certo, e ci ha letto un pezzo su un giornale, certamente come Repubblica, certamente non a favore, non pregiudizialmente a favore dei fascisti di estrema destra come questo tizio qua, anzi il contrario, e dicendoci, guardate che forse le cose non sono andate come vengono descritte, cioè non c'è stata un'aggressione a questi nigeriani da parte di questi, forse addirittura il contrario, ma io non voglio giustificare nulla. Però i fatti bisogna saperli leggere, perché altrimenti parliamo del nulla, eh? Parliamo del nulla. Questo non toglie che la parola scimmia sia una cosa razzista, detta da quello. Ciò non toglie che è morto con un pugno in nigeriano e non è morto il 39enne Fermano che è in galera, su questo non c'è dubbio. Anche Centinaio della Lega è stato un po' attaccato. Chi è questo qui? Centinaio della Lega. Ma è uno, quanti sono? No, è uno, sì, non sono. Lo chiedo, perché a me ne basterebbe anche uno solo. Se addirittura sono un centinaio. È un problema, cosa... dici. Beh, mi preoccupo. Sì, meglio uno, non centinaio. Uno. Finalmente possiamo dire quanto gli italiani sono razzisti e cattivi. In queste ore gli organi di informazione finalmente hanno trovato l'assassino su cui buttare addosso la croce, e poveri immigrati e povere persone che arrivano dall'altra parte dei continenti, mentre noi italiani siamo cattivi e razzisti. Nessuno ha mai speso una parola per le vittime del signor Cabobo, nessuno, anzi qualcuno ha detto che poverino nel suo paese si fa così. Si fa così e te ne vai via, te ne devi andare. Nessuno, colleghi, fate parlare tutti. Nessuno in quest'aula ha speso una parola. Presidente, faccia valere il suo ruolo. Cioè, sostanzialmente dice Centinaio che la discussione non si doveva discutere in aula dell'omicidio di Fermo. Francesco, un bel silenzio non fu mai scritto, come si dice, no? Presidente, ahimè, io non sono abituato e non sono in grado, lo ammetto, di gestire un'aula parlamentare, ma le chiedo un pochettino più di polso nei confronti di tutto quello che abbiamo assistito fino adesso, e anche l'apertura di un dibattito come questo, le dico, forse non era opportuna. Cruciani, abbiamo appena finito di fare l'amore e io al mio ragazzo ho detto... Traffico! Ti ama Giuseppe, ama solo te. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Allora, io chiamerei, Parenzo, l'avvocato del signore di Fermo, che è stato... Com'è che si chiama quello di Fermo? Quel 39enne che è in galera, quello che ha ucciso con un pugno il coso, si chiama... Vai, ragazzo, Mancini si chiama. Allora, l'avvocato si chiama Francesco De Minicis. Lo ha incontrato da poco, vediamo un po' se ci risponde al telefono, perché ci sono alcuni particolari da chiarire, ed è importante chiarirli, è importante, perché per carità nessuno toglie la parola scimmia, il pugno finale, la morte. Che cosa è successo nel mezzo, nel frattempo, tra la scimmia e il pugno finale? Che è accaduto? È importante o no? Sì, è importante, lo dici pure tu, no? È importante saperlo, o no? Sì. Oggi ricordiamo che c'è un cadavere. Sì, vero. Sì, sì. Sì, sì, sì. Certo. No, ecco, questo vogliamo dire. Pronto? Avvocato De Minicis? Sì. Buonasera, sono Cruciani, La Zanzara, salve. Luciani, buonasera. Buonasera. Senta, avvocato, le rubo solo 5 Salve, minuti. Salve, avvocato, buonasera, caro. Buonasera. Le rubo solo 5 minuti. Ci può... Proprio ce n'ho pochissimi. Sì, sì, 5 minuti. Allora, come sono andate le cose esattamente? Ma guardi, siamo in una fase delicatissima. Questo lo so, ma questa storia dell'auto rubata, vero? Sì, auto rubata. Qualcuno dice che la versione diciamo dell'arrestato, i due stavano rubando un'auto. Beh, stavano vicino a un'auto in termini sospetti, non è che stavano rubando. Cioè, tipo, ma armeggiavano intorno all'auto. La parola scimmia è stata detta o non è stata detta? Sì, la parola scimmia probabilmente è stata detta. È stata detta. Chi è che per primo ha reagito dal punto di vista, come dire, delle mani o del palo? Secondo quello che riferisce al suo... c'è stato un iato temporale rilevante tra questo sciocco e stupido insulto, sì, e la reazione. Sono stati almeno 5 minuti, cioè non c'è stata una reazione a caldo. Dopo questi 5 minuti, chi è che ha preso questo palo? Cioè, chi è che ha cominciato? No, il palo l'ha preso in nero, guarda. Questo credo che sia abbastanza pacifico. No? E chi è che ha iniziato per primo ad aggredire? Secondo il racconto, naturalmente, le cose. I due, la coppia di così. La coppia. Cioè, secondo voi, comunque, il primo ad aggredire è stata. I primi ad aggredire sono stati i due neri, i due nigeriani. I due nigeriani, ma questo credo che sia abbastanza pacifico, insomma. Secondo le testimonianze, dice? Sì, credo anche secondo l'ipotesi del capo di incolpazione provvisorio che c'è, che è il capo di incolpazione che parla di un omicidio pretenuto intenzionale e di un pugno. Scusi, la parola esatta che sarebbe stata pronunciata di insulto, no, diciamo, no, qual no, è? No, scimmia, no, poi qualche... È un insulto contenuto dentro un invito ad andarsene. Scimmia, cioè, questa frase è una frase ignobile che questo ragazzo si poteva e si doveva risparmiare, che purtroppo viene detta in giro, viene detta anche da onorevoli e quant'altro, e quindi poi i ragazzi pensano che si possa dire, invece non si deve dire. Cioè, lei sta dicendo che è colpa di Calderoli? No, ma se gli onorevoli usano quel linguaggio... Certamente, se questi signori onorevoli usassero un linguaggio più contenuto, persone che non hanno livelli culturali elevati non si riterrebbero liberi di dirlo. Ma questa qua è una sua interpretazione, avvocato? È una mia interpretazione. Beh, però. Cioè, a me sembra, scusi, glielo dico, sì. Capisco la strategia difensiva. No, ma che strategia? È una considerazione giustissima. Che il signor Mancini si sia ispirato a Calderoli. Non si è ispirato a Calderoli, guardi. Il problema è che il costume di questa nostra civiltà, sì, per cui nei vostri salotti televisivi e radiofonici si dice bravo, stupidaggini e persone che non leggono libri e che guardano soltanto la televisione e vanno allo stadio possono pensare che queste cose si possono dire, questa è una delle cose che non vanno bene. Quelle sono le vere scimmie, ha ragione lui, però, le vere scimmie sono quelle persone che, siccome i politici usano quel linguaggio, dicono vabbè, allora lo usiamo anche noi, bravo, l'avvocato ha perfettamente ragione. Questo non giustifica il fatto che questo ragazzo abbia detto questa cosa. Non si può pensare che siccome alcuni politici usano queste parole, allora... No, ma lui ti dice che siccome è di dominio pubblico ormai, e anche vicepresidenti di Camera, Senato, cioè istituzioni, il ragionamento corretto, a mio avviso, dell'avvocato è questo. Cioè lui dice, quando una persona qualunque, con pochi strumenti culturali peraltro, sente che addirittura nelle nostre istituzioni si usa il termine scimmia, è autorizzato a dirlo, merda, è autorizzato a dirlo. No, è un linguaggio comune. Diciamo, allenta i propri freni inibitori e in contesto magari non sufficientemente meditato lo ripete. Ma lui è pentito? Certamente sì. Com'è, come dire, dal punto di vista psicologico, com'è messo? È sicuramente messo male, distrutto. Voleva, con quel pugno cosa voleva fare? Voleva uccidere? Con il pugno non si vuole uccidere. Voglio dire, nessuno riesce a pensare con un pugno di uccidere. E com'è morto? Sbattendo la testa contro... Probabilmente sì, questo lo dirà l'autopsia domani, non sono in grado di dirlo. Grazie avvocato, grazie mille, arrivederci. Di nulla, grazie. Buonasera. Comunque ragazzi, a me sembra incredibile che l'avvocato del signore Fermano addirittura se la prenda coi politici. Adesso dai. No, ma dai. Ha fatto una considerazione giustissima. Ma che considerazione mi giusta? Mi sforzo ogni tanto di ma dire no, di ripetere, no, per questo no, vengo ma no, ma ragazzi, attaccato, ma lo so che è quello che pensi tu, l'ho sentito prima, che è quello che pensi tu. Mi pare talmente evidente che la classe cosiddetta dirigente, usando quel linguaggio da strada, da bar, da caserma, chiamalo come da stadio, chiamalo come ti pare, che a te piace tanto, ma che io non, ma chi ha detto che piace? Ma non è questione che piace o no, non piace. Te Cruciani, ma che cosa che cazzo vuol dire? Ma popolo cosiddetto. Ma non lo so, tu, ma non è che dire certe cose significa. Ti chiedo scusa. Se per caso, se un politico anche di alto livello dice scimmia, dice scimmia, orango la chienghe, no, come è successo peggio, allora. Schifosi, maledetti, allora, eccetera. Allora la persona che non ha. Guarda la televisione e che cosa fa? Dice sono autorizzato una a dire... volta questo linguaggio uno aveva anche, come dire, un po' di pudicizia ad utilizzarlo, cioè poteva essere una cosa che uno al massimo utilizzava in un bar ma poi si vergognava. Ragazzi, io veramente... ora queste scimmie vere, cioè questi ignoranti trogloditi che spesso anche chiamano qua, non che ascoltano, quelli che ascoltano sono eccezionali, quelli che chiamano, ma che vuol dire? Ma lascia perdere questo adesso, come Donato da Varese, quella gentaglia, ma che lì, c'entra, ecco, Donato adesso, no, perché è il prototipo, questa gentaglia qua è evidente che, sentendo che ormai è di uso comune, ma figura parola, ma anche con leggerezza. Ma voi pensate veramente che Calderoli dice scimmia e le persone sono autorizzate a dire scimmia? È una puttanata questa roba qui, una puttanata. Già, allora decidete, la gente crede alla politica o no? Perché non è, se pensa che i politici sono delle merde, ovviamente non li segue. O li segue o non li segue. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Scusate, ma mi spiegate il motivo di questa trasmissione? Cioè, che senso ha? È che mi diverto anche ascoltandovi, ma non capisco il fine, qual è? Allora, prima di tornare al caso del nigeriano ucciso, caro Parenzo, bisogna dire una cosa. Noi ce ne eravamo accorti sin dall'inizio, che quella di Sgarbone era una puttanata. No, io quella... no, francamente. Ma dai, su, andare a recuperare. No, io sono caduto nel tranello. Ma come fa? Ma andare a recuperare la Gioconda era una puttanata. Ma io sono un credulone. No, veramente, cioè, pensavo che fosse una grande trovata marinettiana, no, futurista di Ma di dai, su, ragazzi, sì, ma sì, veramente, veramente pensi che era in grado di architettare tutto insieme ai musei, scambiare le opere, sì, con le altre, sì, opere? Sì, mi sarei aspettato qualunque cosa, il suo arrivo lì davanti al Museo del Louvre, urlare capra al direttore del Museo del Louvre in francese. Come si dice capra in francese? Chèvre, no? Sì, no, chèvre in realtà è formaggio di capra, sì, chèvre, chèvre, chèvre, chèvre, quello immaginavo. Però scusa, invece una marchetta simile. Esatto, esatto. Alla fine tutto si è trasformato in un marchettone, sì, per i Danè. Per carità, va benissimo, sì, cioè, per carità, ognuno si procura il denaro come vuole, in questo caso Sgarbone si è procurato il denaro, lo possiamo c'è chi dire se lo procura facendo il razzista in Parlamento con la Lega, e c'è chi vabbè c'è... adesso questa è veramente no, una polemica, no, faccio per dire, c'è chi se lo procura ma non voglio dire il nome, come Varin, direttore di Radio Padania, a sputare odio, c'è chi se, capito? Non voglio fare nessun nome, però no, però non fare nomi, sì, non fare nome, non fare se nome. Varin, quel miserabile che su Radio Padania, ma senza, non voglio proprio così, no, senza fare nomi, sì, senza fare nomi. Varin senza citarlo, poi, che non merita poi... neanche, poi altri miserabili che insomma hanno costruito la loro carriera e prendono soldi facendo appunto i razzisti, ma non voglio fare nomi, però fare tu polemiche. dici no, ma non voglio fare polemiche poi oggi, quindi... no, per carità, niente, no, polemiche, c'è un morto, c'è no, un morto di quello, non voglio fare polemiche spicce con no, con assolutamente radio. Però tu dici c'è chi si procura denaro in questo modo e c'è, sì, chi come Sgarbi se lo procura, esatto, con una marchettona, però hai cercato di ingannare l'Italia per due cazzo di giorni, tre giorni con sta Gioconda, telefonate, cose. Io sin dall'inizio ho detto, Sgarbo, ma dove vai? non pensavo all'assegno della Citroen. Diciamo, si può dire tanto, no? Che ce frega a noi? Cioè, non siamo accusabili di prendere denaro per fare pubblicità in diretta ad una marca automobilistica. No, grande marchettone la Citroen, che ha sfornato, sembra, un modello che si chiama Mona Lisa. Hai capito la paraculaggio? Che è arrivato a Parigi là con le due macchine, il video, eccetera eccetera. Sgarbone, vi avevo promesso che avrei riportato in Italia un capolavoro e invece ve ne ho riportati due: Citroën C3 e Citroën C3 Picasso, edizione speciale Mona Lisa. Per non apprezzare due auto così bisogna proprio essere delle capre, o per dirla con un francesismo, delle chèvre. Allora, mi riferiscono che siamo sotto i 100.000. Però forse questa citazione della Citroen per noi vale di più. Allora, cari amici della Citroen, mollate i sordi, pronti con l'IBAN. Parenzo, dai il tuo IBAN, trasferisci a me, perché questa pubblicità in diretta vale un IBAN, no? Vale un piccolo assegnino con l'IBAN. Sì, però non posso dire il... Cosa? Non puoi dire... Il nome non puoi... del mio IBAN. No, il nome dell'IBAN, no, perché poi magari te lo... Il numero. Il nome non c'è, il nome, il numero. Il nome, devo dire il nome. Ma chi c'è? Mauro da Mantova? No, lo vuoi Mauro da Mantova oggi? Lo vuoi? No, cosa vuoi che ti dica? Io sono qui periferico. No, periferico. Nella plancia, no, periferico no, ma scherzo, nella plancia di comando. Con i bottoni, lo schettino a capo della nave. No, adesso, lo schettino no, adesso ragazzi, mi tocco i coglioni, scusa. Con gentilezza, lo schettino, io sono sì, la tua Berusca. Sì, può darsi che io come mandi... Come si chiamava l'amante lì, la signora? Non me lo ricordo. Io sono la rumena. Adesso, non ti... No, io sono come la rumena, tu sei. Non ti considerare così, no, non è importante. Rumene sono determinante. Non era Rumena, la Moldava, credo. Era Moldava. Scusami, la Moldava è stata determinante in tutto quel disastro lì. Sì, assolutamente. Tu dici che sto trascinando questa baracca verso no, la... no, usavo la metafora di oggi rispetto al dove stai trascinando. Stai trascinando, certamente, con facendo intervenire il miserabile, sicuramente. Comunque... Vabbè, Mauro, vai, forza, sentiamo che hai da dire in questo caso. Mauro, vai. Mauro. Allora, quel coglione lì. Io gli dico solo mica tante cose. Prima o poi io ti becco e ti faccio nero, perché? Non gli occhi ce li hai già neri con tonocchi a forza di farti scendere davanti ai cazzi duri. Vabbè, dai, su, no, Mauro, no, Mauro, no, Mauro, fermo lì, ti blocco subito. Se vuoi portarla subito su questo piano, ti blocco allora subito. Allora non se la smetto di provocare. Ma che provocare? Ma cosa dice? Ma... Continua a fare l'idiota, perché lui è... Ma quello può fare quello che vuole. Se permetti, uno può fare quello che vuole. Tu puoi dire quello che vuoi e lui può dire quello che vuole. Sai chi è stato a uccidere l'italiano? Sai chi è stato? Chi è stato? Con me benedetti! Ma che c'entra? Perché io non sono un coglione come lui. Ma dove sono benedetti? Ma che c'entra De Benedetti? Era fermo! L'ho visto fermo! Era fermo! A fermo! L'ho visto! Con in mano il bastone! De Benedetti! E c'era scritto Repubblica sopra, l'ho visto! Vabbè, Mauro, non ho capito che cosa vuoi dire oggi. Non ho capito. Spiegami che allora, cosa. Allora, io te l'ho già detto nel WhatsApp. Te l'ho già detto nel WhatsApp. Che hai detto? Mi hai mandato 40 WhatsApp. Dimmi, no, quale WhatsApp? Ascolta, Cruciale, allora fai sta. Io con la merda non voglio parlare. Vabbè, ho capito. Dai, Mauro, dai, forza. Già che oggi ho litigato, a stamattina alle 8 e mezzo dal piano vicino di casa, che mi viene a dire a me quello che devo fare. No, ho detto bello. Ma chi? Tu a me, il mio vicino di casa, che è un panzone, che è doppio di me. Tu a me. Beh, anche tu non sei magro, mi sembra. Ma che c'entra il tuo vicino di casa adesso? Ho litigato con due deficienti che mi buttano per terra la bici. Scusa, con tutto il rispetto, a noi che ce ne frega del fatto che hai litigato con i tuoi amici? Ah, per questo, perché vuol dire che sei. Vabbè, anche quello non è una. Come dire, non è una. Allora, faccia zitto la merda, che Massimo puzza e basta. Allora, ti dico quello che voglio dire. Quello che è successo a Fermo. Ah, ecco, beh. Ma chi l'ha detto che i neri sono tranquilli? Ci sono degli stronzi anche da loro. Vabbè, ma quello nessuno lo mette in dubbio. Allora, prima di parlare. Sì, anche loro hanno il Mauro da Mantova, certo. Allora, quel coglione che è a fianco vuol fare. No, ma voglio dire, anche tra i neri, sicuramente ci sarà un Mario da Mantova stratificato anche ma tra loro. Idiota, se c'è una merda che si intacca, ti ammazzo. È impazzito. Guarda che a Roma. Ma questa è una cosa gravissima che stai dicendo, Mauro, che lo vuoi ammazzare. Io questo è grave. No, ma questo tu è grave. Però ti voglio Mauro, ti voglio segnalare che a Roma tu ogni volta dici vengo a Milano, ma ti voglio segnalare non per darti un'indicazione. Io pensi che non abbia il coraggio di andare a Roma a pensarlo, quel sì. coglione. Ma no, non credo che tu hai il coraggio. Fai bene a ricordare che sono a Roma. Ti fai molto bene, te. Io ho pensato quello che andava con quella giacca della mia moglie. Era pensato, l'ho pensato una ma scusa, ma questo qui, ma non ho capito. Ma gli hanno tolto l'accompagnamento questo qui? Io non sento. Ma gli hanno tolto l'accompagnamento? Ho capito. Accompagno io al cimitero, pezzo di merda. Ma perché il cimitero? Perché il cimitero? Non ho capito perché. Pezzo di merda. Vabbè. Impara l'educazione. Mauro, no. Va bene, sì, ma adesso ha detto da te, però impara l'educazione mi sembra un po' francamente un po' troppo. Oppure devi imparare il rispetto. Ma è cresciuto lui. Tu dici, ma tu hai detto di essere hitleriano. Io ti voglio ricordare, Mauro, che hai detto di essere hitleriano, uno che dice. Ma non si può. Ma no, che cosa, ma poi per me si può pure, ma non è che poi vuoi parlare di rispetto. Dici, ci vuole rispetto, però sono hitleriano. Eh no, amico mio. Cioè, tra le due. No. Perché Hitler era un bravo uomo? Era un bravo uomo? Non conosci la no, io non conosco, ma era un bravo uomo? È stato un bravo uomo? È Stalin che l'ha ucciso il doppio! Ma che c'entra Stalin che ha ucciso il doppio? È stato un bravo uomo o no? Non ho capito. Insomma, stavo che ti fa. È stato un bravo uomo. È stato un bravo uomo. Vabbè, no, non è stato un bravo. Non è stato. E allora che vuol dire? Allora che vuol dire? Vabbè, allora che considerazione fa il signor Mauro Domanto sui fatti di Fermo? Allora, sì. Guarda che se quell'ultrasì ha reagito. Probabilmente qualche uno l'ha provocato. No, veramente è quello che gli ha detto a quello scimmia, scimmia, eccetera. Tu non sai. I neri del Sudafrica vengono qua spalleggiati da questo governo. Ma quello è nigeriano, però non è del Sudafrica. Ma non è importante. Come qua vengono qua spalleggiati dal Sudafrica e Nigeria. C'è la colpa di Renzi. La colpa è di Renzi. La colpa è sulla scheda elettorale del PD. Ah, la colpa è di Renzi. Che credono che a loro tutto sia permesso. E non è così. E non è così. Perché tu non lo sai. Vengono qua a fanno gli arroganti. Per cui la colpa, Parenzo, la colpa di chi è? La colpa di chi è? Non lo sai? Cosa? La Nigeria si è spostata in Sudafrica. E sai chi l'ha fatto? Ascolta, non me l'ha detto. Non si è spostata la Nigeria in Sudafrica. L'Africa non è certo a nord. L'Africa non è certo a nord. No, ma voglio capire questo. Sì, il comune di Mantova. O Centrafrica è un altro discorso. Il comune di Mantova. Gli hanno tolto l'accompagnamento, guarda, la persona di assistenza. Crepa, l'accompagnamento gli hanno tolto, ve lo dico io. Crepa, cesso. Perché lui aveva per 8 ore la settimana diritto che è giusto. Fermo. Ciao Mauro, ciao Mauro. Allora, dove andiamo? Gianni da Torino, dai. Dove andiamo? Andiamo all'ASL e gli facciamo ridare l'accompagnamento. Gianni, dimmi. Allora, senti, il discorso che è venuto fuori in quello stadio. Sì. Vale dove? Per qualsiasi. Dove? A Fermo, stadio, non c'è nessuno stadio, quello era un. Sì, un campettino lì. Ma nessun campettino, non c'è nessuno stadio. Comunque, dai, vai. Cioè, vale per un discorso di violenza che c'è in ogni campo, in ogni dal campettino di cioè provincia. Non è razzismo uno che dice scimmia una allora, ci sono me due nigeriani che stanno per strada, arriva esatto. Uno che li vede armeggiare intorno, abbiamo esatto. Capito questo, li vede armeggiare intorno a una macchina, sempre secondo le ricostruzioni chiaramente di quello che è in carcere, perché l'altro sì. È morto e gli dice scimmia del cazzo, vattene, più o meno abbiamo capito, c'è sì. Una rissa, quello muore, non è razzismo secondo te? Non c'entra niente. Poteva accadere ovunque. È un coglione quello che ha apostrofato in quella maniera quella donna. Ma questo vale per un senso di generale ormai di offesa, dove ogni parola viene usata. Vabbè, non ho capito quello che vuoi dire. Aspetta, non ho capito, ragazzi. Cioè, bisogna essere chiari. Razzismo? No. Ciao. Pronto Radio Hitler? Ah no, la zanzara. Beh, vabbè, uguale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da. Questa non è la storia della gloria di Roma. A luglio, su History. La zanzara. E brava Cruciani, e brava Parenzo, siete riusciti a creare un caso nazionale sulla questione dei Cerniola, del sindaco di Cerniola. Mo fate fare un po' di soldi al padre del bambino, bravi, siete proprio bravi. Che ne sapete voi della realtà di Cerniola? Il sindaco ha fatto bene e voi siete due tromeone. Il sindaco di Cerniola ha sbagliato, ma nessuno dice una cosa. Questo ragazzo non sa l'italiano, deve parlare in dialetto. A scuola si impara l'italiano, quindi questo è il problema. Dopo aver ascoltato il padre, dico che il sindaco ha ragione, il figlio gli va tolto. Che cazzo impara un bambino da un genitore che non va a lavorare perché ha il diabete? Il diabete? Ma vaffanculo, va Cruciani! Ciao Peppe, mi dai il numero di quell'idiota del sindaco di Cerignola? Vorrei rompermi il piede a forza di calci nel culo. E anche quell'altro cretino che ha chiamato, un altro sindaco. Due idioti di prima categoria, grazie. Grande il sindacone, che bacchetta e giovane bullo. Anch'io se avessi un figlio che a 9 anni è stato bocciato mi vergognerei di uscire da casa. Però non abito in Terronia e non sono un terrone. Basta con questi studentelli che perdono tempo e utilizzano lo stipendio dei genitori in birrette e canne. Franco Metta alla pubblica istruzione. Franco Metta alla pubblica istruzione. La cosa incredibile è che anni fa, durante Radio Parolaccia di Radio Radicale, Parenzo, sì, per la prima volta uscì il termine Terroni, cioè uscì pubblicamente, no? Sì. Detto sì, da tutti quelli che telefonavano, eccetera, eccetera. È pazzesco come ormai viene usato spesso in maniera gergale anche tra persone di una certa, di un certo livello, diciamo, socio-culturale, no? Quei terroni lì in Terronia, anche per scherzare, sì, per ridere. Invece ci sono persone che lo utilizzano ancora in senso dispregiativo, no? I terroni, i terroni, perché a Cerignola quella famiglia è una famiglia di terroni, c'è cioè una famiglia di ignoranti, eccetera, eccetera. Beh, a usare questo termine saranno gli abitanti della cosiddetta Radio Padania Libera. No, ma non ti credere, no, ma non è vero. Oddio, ha chiamato anche Lores stasera, ha chiamato anche Lores. Abbiamo il, il pienone stasera. Cioè, abbiamo solo posti in piedi, devi dire, solo posti in piedi, capito? Tutto esaurito, solo posti in piedi. Tutto esaurito, il programma 105, un'altra cosa. Hanno tolto, non lo so, perché hanno tolto l'accompagnamento a un po' di gente, si vede, questo mese per l'Italia, la sanità, che ci sono stati. Sì. E quindi questi malati di mente, insomma... Girano liberi, dici, girano liberi. Sono liberi, sì. Lores, Lores. Ecco. Buonasera. Che c'è, amore? Dimmi, dimmi, che c'è? Che cosa, che cosa, che cosa ti è venuto in mente? Ecco, perché hai killer, chiamato? La killer che ride prima di sparare cazzate. Senti, senti la killer. Perché il killer ride prima di uccidere. E lei è uguale, dialetticamente. Ride, poi spara. Senti, guarda, la risata malefica, satanica di questa donna orribile. Prego. Dimmi, Lores, dimmi. Senti, Cruciani, posso fare una premessa prima di andare su Fermo? Sì, su Fermo, certo. Sì. Qual è la premessa? Allora, la premessa è che io ho una nipote nigeriana. Nigeriana. Che vuol dire una nipote nigeriana? Scusa, spiegami. Ha sposato mio nipote, il figlio di una mia sorella, ed è la nipote ereditata che adoro più di tutti. E vabbè, ho capito. Allora, allora, l'anno scorso lei è andata un mese giù a casa sua in Nigeria. Sì. Ed è tutto stupendo, tranquillo. Mettiamo la Nigeria, facciamo l'Italia. Vabbè, adesso, no? non andiamo facciamo sulla Nigeria. L'Italia. No, no, no, ma dopo andiamo. Qual è il problema? Qual facciamo è il problema? L'Italia, facciamo l'Italia. Allora, il Veneto c'è Boccarano. E poi tutto il resto è un paradiso. Allora, mi dici perché quelli del Veneto, invece di andare in tanta mona, noi va nel resto della Nigeria? Me lo dici? Ma non, perché... no, non me ne frega niente adesso dell'indipendenza del Veneto. Niente. No, allora, non è il tema di oggi. Con chi sei quello di Fermo? Cioè, okay? Con chi? Con chi? Con il ragazzo che ha ucciso il nigeriano, sì, che ha dato il pugno al nigeriano. Sì, allora? Sì, esatto, sì. Perché non si offendono le scimmie. Cioè? No, lui ha dato della scimmia, non si offendono le scimmie, sono ecco, degli animali meravigliosi. Ma scusa, che male, ha fatto loro... quella, che male ha fatto quella signora, quella, la donna nigeriana, là? Perché gli stai dicendo questa cosa, scusa? Non lo so che male ha fatto, solo che io sono stufa, che se io vado, io sono stanca di uscire di casa e pensare a casa che non la cerca nessuno. Sta zitto, coglione di merda. Sì, a casa, signora, che non ma non ho capito qual è il problema. Non ho capito. Il problema è che se io esco di casa o corro il rischio di venire ammazzato oppure corro il rischio di andare in prigione. Ma non è vero. Per il semplice fatto che non se io non mi difendo mi ammazzano, se mi difendo sono una razzista di merda. Ma scusami perciò, un attimo, che ma colpa dove siamo ridotti? Ma perché? Ma perché? Non ho capito. Hai detto una cosa incredibile. Hai detto sei incazzata con quello di Fermo che è accusato di omicidio perché ha insultato le scimmie. Cioè, secondo te, quella ragazza nigeriana compagna insultato le scimmie è peggio di una scimmia secondo te? lo dici tu. No, ma tu lo dici, hai insultato... Me... No, per me è stato un insulto grande alle scimmie. Vabbè, ti ho fatto la premessa prima. Lores, dai, su. È orribile. Dai, orribile questa persona. Dai. Allora, cioè, non è neanche qualificabile nella scala umana questa persona. Cioè, stai offendendo i morti. No, io non offendo nessuno. Beh, stai offendendo i morti dicendo no, che sua moglie mi sembra che sia ancora viva, giusto? Vabbè, che c'entra? È morto il marito. Quanti italiani sono morti ammazzati da quelli lì? Quanti italiani sono morti? Ammazzati da chi? Da chi? Da questi invasori. Ma che c'entra? Ma questo era un cristiano che era stato perseguitato ed era scappato. Ma che è scappato un cazzo? Ti ho appena detto che in Nigeria fa conto l'Italia, il Veneto, che si casini. A voi in Lombardia, a voi in Emilia Romagna, a voi in Sicilia. Ma non vuoi mica in Italia, cazzo? Cosa mi stai dicendo? Cioè, è tutta una farsa. A questa simpatica signora cresciuta nelle migliori scuole. Sì. Che intanto bisogna dargli la geografia a questa matta qua. Secondo, bisogna dargli l'accompagnamento coatto, però non quello volontario. Terzo, chiedere ai carabinieri dello Stato italiano. Ma adesso i carabinieri, che c'entrano i carabinieri? Comunista che non ci ha. Ma quella non li riconosce i carabinieri, Lores, dice che non esistono i carabinieri. Ecco, ci mancava anche questo. Credo che per te non esistono i carabinieri. Così, bussi i carabinieri. I carabinieri esistono finché. Esistono fino a un certo punto e basta. Cioè, per te non esistono i carabinieri? Per me tutto quanto quello che è italiano per me non esiste. Vabbè, hai capito? Ecco, vabbè. Per me non esiste. Non esiste, vabbè, non ciao. È solo soppressione. Va bene, va bene. E basta. Oppressione, bene, oppressione. La soppressione, quella del cervello suo, che è stato soppresso da tempo completamente. L'unica cosa soppressa, vera. Maurizio da Verona, vai. Maurizio, vai. Niente, ciao, io volevo solo fare un quesito sul caso di Fano. Fermo, perdonami. La differenza c'è in quel caso lì con quello di Sicilia, di quei due signori anziani che sono stati ammazzati da un super abbronzato. Da un super abbronzato? Ecco da un super abbronzato, che sarebbe ecco un nero, da uno di colore. Esatto. Beh, allora io dico, il signor Albano che è venuto a Fermo a proclamare... Tu dici, doveva andare anche da altre parti. Bravo, perfetto. No, bravo, questo lo dici tu, non è che lo dico io. Cioè, no, bravo, cioè nel senso, bravo, doveva andare anche là. Mm. Sei il ministro della Repubblica Italiana. Mm. Anche cioè, perché sono i suoi conterranei, quei due signori siciliani, giusto? Sì, tu stai dicendo che il governo ha cavalcato questa cosa qui e doveva in realtà andare anche da altre occasioni. Se è un ministro della Repubblica Italiana, secondo te? Ma vabbè, maestro, questo lo stai dicendo tu, a me non me ne frega niente, per me il governo che va in un posto, secondo me è una follia perché ci sono un sacco di omicidi in Italia dappertutto. Appunto, per... ecco, difatti, esatto, è... Ma è una cosa demagogica, è chiaro che è una cosa un po'... Ah, no? Ecco, perfetto, quindi abbiamo dei... Sì, ma non perché non ci sia, non perché la cosa non sia grave, ma perché altrimenti un ministro dovrebbe stare in giro ogni giorno in tutti gli omicidi che ci sono in Italia. Insomma. No, sto dicendo che la cosa di Fermo non è grave, ok? Io ho capito. Che ci sono altre cose gravi. Va bene, esatto. Ciao amico mio, ciao. Allora, Matteo Salvini con noi, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Davide. Allora, Salvini è stato accusato oggi praticamente da mezzo mondo diciamo politico, giornalistico, eccetera, eccetera, ma anche sul suo sito Facebook ho visto molte critiche, ma questo è legittimo, ovviamente. Per un post che ha scritto praticamente qualche ora fa dopo i fatti di Fermo: chi uccide, stupra, aggredisce un altro essere umano va punito, punto, a prescindere dal colore della pelle, sei bianco, sei nero, sei rosa e ammazzi qualcuno senza motivo in galera, la violenza non ha giustificazioni. Il ragazzo nigeriano a Fermo non doveva morire, una preghiera per lui. È sempre più evidente che l'immigrazione clandestina è fuori controllo, anzi l'invasione organizzata non porterà nulla di nuovo, controlli, limiti, rispetto delle regole e pene certe, chiediamo troppo. Però la questione, Salvini, è molto chiara. Qualcuno ha detto: perché hai messo insieme l'uccisione di un tizio nigeriano con la questione dell'immigrazione clandestina? Appunto. Perché oggi, proprio oggi, guarda caso, sono usciti i dati sulle richieste di asilo politico del mese di maggio, quindi del penultimo mese, dati ufficiali del Ministero dell'Interno, Sì. Quindi li ho messi sulla pagina Facebook, sono facilmente riscontrabili sia sul sito del Ministero dell'Interno, se uno non si fida della pagina di Matteo Salvini, che ci dice che i rifugiati in quanto tali nel mese di maggio sono stati 6 su 100. 6 su 100, per esattezza 511 su 9000 domande. E dunque? Questo e sicuramente dunque, è così. Vuol dire che i due terzi di coloro che stasera, quindi è giovedì sera, stiamo gentilmente ospitando negli alberghi o negli agriturismi di mezza Italia, sono semplicemente riconosciuti come immigrati clandestini. Questo è un problema. Questo è evidente. Però che c'entra un problema con i fatti di Fermo, cioè con l'uccisione di quel nigeriano? No, ma il fatto di Fermo io l'ho condannato come qualunque altro essere umano normale. Che fine dovrebbe fare quel tizio 39enne? Ma uno che ammazza un'altra persona in mezzo alla strada deve stare in galera per il resto dei suoi giorni, per quanto mi riguarda. Apro una piccolissima parentesi, spero di poterla fare perché riporto notizie di giornalisti locali. Sì. Se il soggetto in questione è stato aggredito per primo, ovviamente cambia qualcosa. Se il soggetto in questione è stato preso a mazzate lui per primo, sembra di sì. Ha reagito, evidentemente cambia qualcosa. Lo posso dire? No, ma l'ho detto io, per cui lo vuoi dire. Pubblicamente carcerato o no? Un conto è se io incontro per strada un tizio, lo insulto e lo ammazzo di botte. Sì. Un conto è se io insulto un tizio e sono un deficiente. Questo mi prende a mazzate e io mi difendo. Sì, d'accordo, evidentemente, ma c'è un tasso di violenza nelle parole che possono generare poi. No, però Davide, questo. Poi, scusa, poi la polemica evidente. Politica la accetto. Quelli che delirando hanno scritto che sono il mandante morale. Saviano, per esempio, omicidio, che dici a Saviano? Io li querelo. Saviano, li querelo. Vuoi querelare Saviano? No, Saviano è un poveretto, io Saviano lo compatisco, mi ha dato del cialtrone dell'ignorante, non mi offendo, chi se ne frega. Querelo il giornalista dell'Espresso che sostanzialmente ha scritto che per me quel ragazzo nigeriano se l'è andato a cercare un po' colpa sua, questo è un deficiente. No, lui anche ha detto, perché ha detto il nigeriano è uno dei pochissimi rifugiati politici veri, perché se è effettivamente un cristiano scappato dagli assassini di Boko Haram in Nigeria, è uno di quei 4 su 100 che davvero scappano dalla violenza islamica. Il problema italiano in questo momento sono tutti gli altri che sbarcano qua, che piazziamo però, in albergo, però io non scappano da nessuna guerra. Torniamo adesso sulla questione dei fatti, perché prima abbiamo citato quella testimone che c'è, più tardi cerchiamo di trovarla e di intervistarla. Ma io personalmente ho sentito qualcuno della zona, io personalmente però voglio dirti una... ho sentito più di una persona che ti hanno detto guarda, quello là lo conosciamo, è un tifoso e una testa calda, tanto che era già stato squalificato per allora... allo stadio. Appunto. Ma in questo appunto caso è stato picchiato per primo, io poi non ero sul posto, quindi figurati se faccio l'avvocato, il poliziotto o il giudice. Però mi sembra che soprattutto da sinistra... Cioè c'è il razzismo o no? Cioè, siccome è stato dipinto da tutti, da tutte le istituzioni... Posso dire che da sinistra si sfruttano certi episodi, mi ricordo quando Renzi usò in maniera... veramente squallida l'immagine di quel bimbo morto su quella spiaggia per giustificare quella che è un'immigrazione senza limiti e senza controlli che non porta nulla di buono. Quindi è veramente... Cioè, secondo te non è un episodio di razzismo questo qua? Vabbè, gridare a uno, dare uno della scimmia... No, d'accordo, ma è un episodio, cioè un crimine razzista, ci vuole l'aggravante razziale come dicono molti, eccetera. Un assassino è un assassino. Beh, io sulle aggravanti mi metto a ridere, l'aggravante razziale, l'aggravante, allora se uno uccide nel nome del Milan, dell'Inter, se uno uccide. Ma scusami, cioè l'aggravante razziale non dovrebbe essere razzismo, cioè l'aggravante razziale non ci dovrebbe essere secondo te? Ma è una cazzata l'aggravante razziale, legge, scusa, sì, ma quello che ha ucciso perché gli hanno rubato il posto auto, cosa faccio? Do l'aggravante viabilistica? Vabbè, il razzismo è un'altra cosa. Se uno uccide, però... ripeto, voglio aspettare i rapporti della Polizia di Stato, a meno che la Polizia testimonianza molto chiara che prima ho letto di una signora che era lì sul posto e che pare sia arrivata quando già era iniziata la rissa, che dice che il palo lo ha preso il nigeriano, che a picchiare era pure la compagna del nigeriano, che lei ha visto il pestaggio del tizio che poi ha sferrato il pugno. Alcuni dicono l'avvocato, ovviamente della persona, che il nigeriano è morto dal freddo adesso. No, il pugno c'è stato, quello è morto perché ha sbattuto sembra che col pugno quello ha sbattuto la testa, ma io non voglio togliere nulla, sto dicendo semplicemente che se uno ti dice scimmia di merda e tu lo aggredisci, beh, non è la stessa cosa. Tu invece, Parenzo, sostieni quasi che è la stessa cosa. Se io uno... dico che io ho detto prima una cosa che ripeto, e cioè che il ragazzo rifugiato dal, che viene dal regime di Boko Haram ha il diritto di reagire in quel modo anche violento, no, quando uno ti dice scimmia di merda, senza quelle che viene da un regime sanguinario. Ma che c'entra questo, scusami, non è avvezzo alle regole democratiche, forse ai concetti, quindi vanno anche questi profughi assistiti, sì. Ma lascia perdere adesso questa roba qua. Ma ho capito, ma se tu reagisci, ragazzi, se tu reagisci ammazzate, se ti dicono scimmia di merda e tu quello che hai detto scimmia di merda sei un coglione. Il matto può partire a chiunque, può partire a me, può partire a Cruciani. Siamo alla giustificazione, siccome uno dice scimmia di merda può prenderti ammazzate. Vabbè, d'accordo, per carità. Il momento di rabbia può partire a chiunque, sia italiano. Salvini, una scrittrice, Michela Murgia, dice che i maestri dell'assassino di Emmanuel sono in Parlamento. È la stessa cosa che ci ha detto anche l'avvocato prima, forse per giustificare il suo assistito, ha detto Calderoli quando dice scimmia ha delle responsabilità. C'è un precedente, ragazzi belli. Che dici, questo? Matteo? Ma questi sono deliranti. Questi sono deliranti. Se io chiedo un'immigrazione limitata, controllata e qualificata, sono il mandante morale dei deficienti che sono in giro per l'Italia. No, secondo ma questo ce l'hanno quei politici che stanno facendo i soldi sull'immigrazione clandestina. Tu hai sempre detto che il colpevole è Renzi che porta gli clandestini in Italia, in questo caso che è indirettamente... Ma non vi rendete conto che la gente è esasperata? Che in questo momento all'ascolto della Zanzara ci sono persone civilissime, sì, che magari fanno volontariato, le persone più pacifiche della terra, che però avendo problemi di casa e di lavoro non ne possono più del fatto che chi sbarca domani mattina a Lampedusa ha più diritti. Però scusami, tu hai scritto una cosa, hai legato due cose insieme che non c'entrano una mazza, perché non puoi mettere nella stessa condanna dell'omicidio, il controllo porta la gente all'esasperazione. Non ho capito, perché quello era esasperato, allora quello che ha tirato il cazzare anche le persone più normali. Senza andare a cercare. Scusami, allora quello che ha detto scimmia era esasperato? Quello che ha detto scimmia era esasperato? No, ma se uno urla scimmia un altro in mezzo a una strada è un coglione. Le due cose sono distinte, non sono sullo stesso piano. Tu le hai messe sullo stesso piano. Nelle Marche, nella stessa fase, aprite i telefoni, chiedete per la prossima mezz'ora che chiamino solo i cittadini marchigiani e i cittadini Fermo. Chiedetemi se non sono esasperati senza andare in giro. Però tu in questo modo stai dicendo che quello che ha detto scimmia... Ma ho capito, che ha detto scimmia è un cretino. Ho capito, però tu fai... I problemi si risolvono non insultando e non prendendo a pugni la gente. Ho capito, però era esasperato. Però era esasperato, tu dici. Le leggi attuali in Italia sono demenziali. Sì, però in questo caso, scusa, cosa c'entra con l'omicidio? Cosa c'entra con l'omicidio? Cosa c'entra con i fatti, con la rissa? Il clima di intolleranza è suscitato dai buonisti pro Barconi. Clima di insofferenza è alimentato da chi fa finta che in Italia stai dicendo che gli intolleranti è difficile che uno urlasse scimmie in mezzo alla strada prendendosi ammazzate col primo. Allora io dico che chi dipinge Salvini o altri come mandanti è un coglione, ma dico allo stesso tempo che dire che gli sbarchi e i clandestini alimentano l'intolleranza. Giustificano in qualche modo il tizio che dice scimmia, dai. Ho detto l'esatto contrario. Ma no, dici, metti le due cose insieme. Ho detto l'esatto contrario, che uno che urla scimmia in mezzo a una strada è un. Ho capito, ma allora non lo devi dire la seconda parte. Però se le metti insieme le due detto cose. Questo, ma siccome oggi di cronaca nera è pieno. Ma il governo fa male ad andare lì? Il governo fa male ad andare lì? No, il governo è ipocrita, lo diceva l'ascoltatore prima. A fine agosto è un anno dall'omicidio di un richiedente asilo dei due anziani coniugi di Paragonia. Cioè dovrebbe andare il governo o ci va sempre o non ci va mai. Allora, grazie. La Zanzara. Cruciani, non ti stai parenzizzando, ti stai boldrinizzando. Il mediatore culturale per il povero bambino bulletto. Ma vai a fare in culo, vai. Mai detta una cosa del genere. Figuriamoci se penso che bisogna prendere un mediatore culturale o non so chi per il ragazzino Bulletto. A parte che Bulletto l'hai detto tu, perché non è affatto Bulletto, ha semplicemente detto che era stato bocciato. Se l'ha inventato il sindaco che è un Bulletto, o comunque uno che era dato in pasto ai delinquenti. Abbiamo sentito ieri il padre, il quale è stato chiarissimo su questo. Il padre ha detto chiaramente che si sente una merda perché il bambino è stato bocciato. E comunque spetta al padre, non spetta al sindaco rimproverarlo, punto. O comunque rimproverarlo in maniera così plateale. Allora andiamo a Mantova da Nasser. Nasser che non è l'ex presidente ormai morto da un sacco di tempo dell'Egitto. Vai Nasser. Buonasera. Dimmi. Qua, sì, perché mi hanno chiamato Nasser referendusi a quel presidente lì. Sei egiziano di origine? No, sono giordano di origine. Sei giordano. Sì. Bene, sei italiano o no? Sì, sono italiano, giordano. Dimmi Nasser, dimmi. Allora, volevo intervenire. Nasser o Nasser, come ti chiami? Esattamente. Nasser. Allora? E per l'omicidio di Fermo, e volevo intervenire per dirle che, siccome gli interessavano i fatti. No, in allora questo caso, fatto, in questo caso è interessante sapere com'è andata. Ti do un fatto, essendo nero, sì. E se qualcuno ma quanto sei nero? Questo, quanto sei nero? Tanto nero. Perché i giordani non so. Abbastanza per essere considerato nero, credimi. Ok. Allora, quello che ti dicevo è che se uno si rivolge a me con questo dito qua, io reagisco e gli do un pugno in faccia. Perché la questione è. Allora, caro Nasser. Mi fa finire, qual è la violenza? Qual è il livello di violenza? È quello di una parola come la scimmia o di una reazione con il palo? Quindi questa è la questione che dobbiamo dibattere. E siccome credo che siamo le persone civili, c'è una considerazione che si deve fare dell'altra persona, di come percepisce la violenza. Siccome il soggetto del quale state parlando mi sembra un oltra testa calda, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, ma non è che quello lo sapeva però prima. Fascista di destra. Ma che c'entra questo? Non credo che sia rivolto rispetto a questa coppia che passeggiava per fatti suoi con affare molto tranquillo dicendogli siete una scimmia. No, non credo che sia stato così. Allora. Vuol dire che il ragazzo ha percepito un livello di violenza. Ma io non so cosa ha percepito. Per cui ha reagito. Poi dopo lei mi può citare, ha reagito con la moglie, cioè un aggravante. La donna che ha picchiato questo, immagino palestrato, pieno di tatuaggi, è stato picchiato da una donna per lei con la scarpata. No, ma scusa. Con la scarpata! Oddio, la donna che ha reagito con la scarpata. Allora, amico mio Nasser, non è che se uno ti dice scimmia di merda, eccetera, tu prendi una spranga, reagisci o comunque dai. Ma nel clima in cui stiamo vivendo, vuol dire che il livello di violenza, di aggressione è alto se ti rivolgi a una persona con questo termine qui. È chiaro questo. Ma cosa vuol dire? Perché ma perché mettete sullo stesso piano? Così? Ma perché mettete? Ma quale clima? Dai. Salvini. Prima appena finito di parlare con Salvini. Scusami. E questo è il clima che si è abbiamo. Scusami Nasser, non ho capito. Ma che ti ha. Profughi. Che poi scusa, ti insultano per strada. Nasser, ti insultano per strada. Qualcuno. Per vostra sfortuna sono cattolici, no, che avresti dovuto difendere e invece no, non si difendono perché poi si pensa che sono Nasser, io voglio capire. Scappano Nasser, da un soldato, Nasser, cosa, Nasser. E quindi è legittimo ammazzarli. Scusa, sei. Questo il clima a che te viviamo, ti, chiaro, non, questo. Ti insultano per strada o no? Certo. Sì, ti dicono scimmia per strada ogni giorno. No, non no, dire. No, perché ho detto che reagisco con un pugno se uno mi insulta in quel modo. Vabbè, ma tu puoi reagire come vuoi, poi paghi le conseguenze. Allora, questo è un fatto, se ti chiamano scimmia e dai un pugno questo, a uno, vai in galera tu, no? Considerare un fatto questo. Quindi, ma se tu pensi che sia legittimo. La violenza, se. Chi è si è rivolto in quel modo? Vabbè. Chi ha reagito con la spranga? Amico buonasera, mio. Grazie. Ma no, ma non è che buonasera, grazie. Ma che è il comizio qui? I tempi dell'Egitto di Nasser sono un po' cambiati, Non è così. Nasser, ci sei o no? Con la scarpata. Nasser, tu stai dicendo una cosa assurda. Se uno ti chiama scimmia, tu gli dai un pugno in faccia. Certo. Ma certo, un cazzo, ma che vuol dire certo? Se sbaglia chi ti dà della scimmia, ma non puoi reagire con un pugno. Come devo reagire? Ma grazie, te ne vai, te ne vai, dici sei un coglione e te ne vai. Ma che cazzo vuol dire? Ma sto dicendo, se si arriva in questi casi, vuol dire che il livello di aggressione, ma io di non lo so che aggressione, è alto. Quindi questo palestrato non si era rivolto a loro dicendoli sei una scimmia, immagino che ma no, immagini, violento, immagini, immagini, immagini, contatto, immagini, eccetera. Immagini, immagini. Allora, sì, immagino, perché lei vuole i fatti, immagini, sta immaginando prima, questo è il fatto. Chi ha aggredito chi? Sembra la spranga, adesso è diventata la questione, la spranga, chi l'ha usata prima? Vabbè, ma certo, questo le indagini chiariscono, altrimenti a cosa servono? Non ho capito. Cioè, vabbè, Alberto da Milano, vai Alberto. Alberto, vai. Sì, dimmi. Ciao, eccomi. Ci sono. Dimmi, Alberto. Senti, dimmi. Mi chiedevo una cosa. Dove è andato quello? Al cesso, come al solito, alle 8. Vabbè, dai. Forza. Pronto? Alle 8, prima di andare in trasmissione, alle 7, va al cesso. Vabbè, che devi fare? Vai, Alberto, dimmi. Ma io mi chiedo, sì, qual è il livello di aberrazione che ti coglie, sì, nell'invitare su un argomento così delicato? Sì, così delicato. Qui non ci sono argomenti delicati, ci sono argomenti, punto. Va bene, argomenti. Non ci sono temi delicati, argomenti, temi, fatti, ecco, cose. Chiamare dei, sì, fuoriusciti da, sì, un trattamento sanitario obbligatorio. Chiamano loro, qui c'è un centralino, se la cosa non ti è presente. Esiste un centralino. Peccato che quelli intervengono sempre, peccato che quelli c'è la via preferenziale. Non c'è nessuna via preferenziale, fenomeno, non c'è nessuna via preferenziale. Non ci sono fenomeni, qui ci sono solo persone. Infatti sta intervenendo anche tu. Infatti stai venendo della tua radio deficiente. Infatti sta intervenendo anche tu. Ok, far intervenire quella gente con quei comizi deliranti, sì, non si fa altra che aumentare tensione. Non mi interessa a me queste cose sociologiche, non mi interessa quello che dici tu, l'audience, quello che dice un altro, no, l'audience, quello che dici tu, quello che dici tu, quello che dice un altro, quello che dice un'altra persona, su quello parlo, non di quello interviene perché è così, quell'altro interviene perché è colà, facciamo intervenire quello perché fa più casino, facciamo intervenire quell'altro, stai parlando anche tu che mi critichi perché secondo te faccio intervenire Mauro da Manto, ma Mauro da Manto ogni tanto chiama, purtroppo ha 9-10 telefoni e dunque non c'è filtro, purtroppo, perché altrimenti ci sarebbe un filtro, ma ti assicuro 9-10 telefoni, dunque chiama quando vuole, questo è il punto. Poi guarda, interviene meno frequentemente di quanto potrebbe intervenire, spesso chiama e non lo facciamo intervenire. Vabbè Alberto, che vuoi? Non ho capito. No, è questo. Solo questo. Hai finito? Evitare queste frasi deliranti. Bene, grazie. Giuseppe da Verona, vai. Ciao. Dimmi Giuseppe. Dimmi. Niente, chiamavo perché... Ancora accesso? Ancora accesso? Sì, ancora accesso, vai. Sì, Giuseppe, dimmi. Sì, sì, posso... no, accesso quell'altro, sì, David, sì. No, niente, allora chiamavo perché sono d'accordo con Parenzo che evidentemente di accompagnamento non c'è più per certa gente, ma al di là di questo, quello che mi fa più specie è che stiamo dando delle versioni quando ancora la magistratura, la polizia, questa signora era arrivata lì, quando c'è arrivata, che cosa ha visto, che cosa ha sentito? Allora? Io dico semplicemente che dare della scimmia a una persona è un... Vabbè, ma questo non c'è dubbio, se uno dice, a parte che la parola stessa scimmia non è che sia di per sé, dire scimmia di merda una, scimmia vattene, guarda, è chiaramente offensivo, non c'è dubbio. Se uno dice scimmia un altro, è chiaro, perfetto, che dipende il modo in cui lo dici, no? Dato un pugno, poi questo, ma sì, ma questo io non so cosa è successo dopo, neanche io. Io so semplicemente che una persona è morta. No, ma questo l'abbiamo detto sin dall'inizio, punto. Va perfetto, bene, Giuseppe, ciao. Voglio, è tornato Parenzo, no, fermo, ciao, che dobbiamo chiamare una persona, è tornato Parenzo. Cruciani, tu sei uno stronzo, sei fastidioso, sei spocchioso, sei strafottente, ma io ti amo. La Zanzara. Allora, vi ho parlato all'inizio della trasmissione di Pisana Bacchetti, che è una cosiddetta super testimone di questa vicenda. Ho assistito alla scena e ho visto il giovane Fermano, prima di sferrare il pugno, è stato letteralmente assalito dalla vittima e da sua moglie. Allora, David, io direi di chiamare questa signora, questa Pisana Bacchetti, non si capisce bene qual è il nome e il cognome, comunque Pisana Bacchetti, che credo faccia la parrucchiere, o comunque lavora in una parrucchiere. Vediamo un po' se la troviamo, è un po' tardi, però dovremmo farcela. Pronto? Sì, buonasera, cercavo Pisana. Sì, sono io, chi è? Salve, buonasera, mi chiamo Cruciani. Volevo capire se questo racconto che lei ha fatto al giorno è tutto vero. Esattamente, sì, né una parola in più né una in meno. Cioè, che, lei ha assistito a tutto, diciamo, a tutto quello che è successo? No, quando sono arrivata la lite era già in corso, come è partita non lo so. Lei ha detto che ha visto la coppia di nigeriani attaccare, sì, anche con un palo il ragazzo. Esatto, esattamente, ma già la lite era in corso. Cioè il palo, chi l'ha visarcionato? Il nigeriano. Cioè gli aggressori chi sono secondo quello che lei ha visto? Secondo quello che io ho visto si stavano picchiando tutti. Si stavano picchiando tutti, ma quello col palo in mano chi era? Era il nigeriano. E la ragazza che ruolo ha avuto, diciamo? La ragazza picchiava tanto quanto il marito. Tanto quanto il marito addirittura? Sì, con le scarpe, con i morsi, con quello che poteva. Dunque lei non ha visto l'origine, diciamo, no? No, assolutissimamente no, l'ho anche dichiarato, l'ho detto alla polizia, l'ho detto io quando sono passato era già iniziato. Dopo questo che lei ha detto, che cosa le è successo? Perché questo è interessante, perché lei ha dovuto cancellare Facebook, che è successo? No, mi hanno cancellato da Facebook, mi hanno dato della falsa testimonianza, mi hanno insultato, della razzista, un po' di tutto. Cioè lei, questo signore che è stato fermato, quest'ultra della fermana, non lo conosce, non è suo amico? Ma perché no? Cioè lo conosco perché l'ho visto, cioè so chi è, perché è famoso qui a Fermo. Però lei non ha, come dire, non ha un pregiudizio nei confronti dei nigeriani, insomma. Ma sta scherzando? No, ma è una domanda che le faccio. Nella maniera più assoluta. No, perché... Cioè, lei sta parlando con una persona che quest'inverno... Sì. C'aveva il giaccone nuovo di mio figlio qui appoggiato. Sì. Un ragazzo di colore che passa sempre qui, che si ferma, mangia qui, prende il caffè qui... Io stavo con la magliettina della del giaccone di mio figlio, nuovo di pacca. Lei ha semplicemente raccontato quello che ha visto. Esatto. Che c'era una rissa in corso e che i due nigeriani, cioè marito e moglie, stavano picchiando, mi corregga se sbaglio. In quel momento in cui sono arrivato io, chi si stava difendendo era il fermano. Il fermano, era per terra il fermano? Sì, è caduto a terra con i colpi che gli ha dato con... Con il palo di cartello. E poi lei ha visto anche il colpo che il fermano, sì, ha dato al... Sì. E che colpo è stato? Gli ha dato un colpo in faccia, questo è caduto all'indietro e ha battuto a terra. Da quello che lei ha visto, che conclusione ha tratto? Qual è la sua conclusione? Che erano due poveri deficienti che litigavano in strada, mo sarà bianchi, neri, a bolli. Sì. Ecco, uno è morto e un altro sta in galera. Due poveri imbecilli che si è rovinati la vita. Perché non lo so, questa è la mia conclusione. Lei dunque la parola scimmia, gli insulti che il tizio avrebbe ripetuto. La parola scimmia la ripeteva la moglie nei confronti del fermano, diceva chi scimmia, come se precedentemente lui sicuramente gli avrebbe detto qualcosa del genere. Lei quanto è sconvolta per quello che è successo? Guardi, non si racconta, perché non è un bello spettacolo, primo, e le conseguenze sono ancora peggiori dello spettacolo. Si parla di razzismo, è sceso in campo il presidente del consiglio, eccetera eccetera, lei che dice? No, non c'entra assolutissimamente, in quel che io ho visto no. Comunque c'erano altri testimoni che stavano lì già da prima. Sembra che abbiano raccontato la sua stessa versione, la sua stessa, cioè la versione. Sono contenta. Ha paura lei? Guardi, le posso dire il fatto che mi hanno messo sul giornale con nome, cognome e foto senza per me, senza chiedermelo. Non mi fa stare tranquilla con questo clima che si respira. Va bene signora, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ah, ragazzi miei, altre testimonianze, questo non vuol dire nulla naturalmente, c'è un morto, il morto è nigeriano, c'è una frase che è stata detta prima, però quello che è successo in mezzo è interessante, vabbè, quello se n'è andato, e... che c'è, il traffico, sì, il traffico. Crucia, hai rotto il cazzo con la zanzara, noi vogliamo sentire la pubblicità e il traffico. La zanzara. Cruciani, oggi sono andato in sauna, quando ho fatto la doccia mi sei venuto in mente tu ed ho fatto la pipì sotto la doccia. La tua è istigazione a delinquere, siamo al top, siamo al top. Luciani, una domanda mi sorge spontanea. Ma il bidet almeno te lo fai tutti i giorni? Perché lo smegma non è, insomma, una cosa salutare. Parenzo, questa mattina io e il mio fidanzato ci siamo fatti il bidet nel lavandino. Gianluca da Milano, vai. Sì, buonasera. Io volevo dire solo una cosa semplice. Io non sono sicuro che poi questa cosa sia razzismo vero e proprio, però credo che ci sia un po' troppa disinvoltura nell'utilizzare espressioni razziste come terminologia comune, che poi utilizzate come offesa possono offendere e causare delle tragedie, perché questa poi alla fine è una lite che è trascesa ed è finita in un omicidio in due persone che si sono rovinate la vita. Tutto per una frase stupida, che magari è frutto di un razzista, magari è solo ignoranza. No, non ho capito, scusami. Stai dicendo che non è stato ucciso per razzismo? Cioè, sto dicendo che io, mi capita spesso di sentire parlare persone utilizzare espressioni che sono razziste. Però magari persone che conosco, che sono certo che loro non sono razziste, ma siccome sono diventate di uso comune, c'è troppa disinvoltura. Vabbè, ma questo qua, scusami amico mio, questo qua era un estremista di destra. Probabilmente era anche razzista. Allora, dai, su. Cielo. No, certo, però poi l'omicidio in sé è stato una lite che è trascesa. Sì, ma quello, tutti gli omicidi sono di per sé, non è che hanno il timbro del razzismo. Dopodiché questo qua è chiaro che due passeggiavano per strada, questo gli ha dato della scimmia a quello e poi c'è stata una rissa. Cioè, questo è il punto. Dai, Lucia Pordenone, dai. Lucia? Pronto, dimmi. Pronto. Dai, dimmi Lucia, dimmi, dai. Ascoltami, non fare troppa pubblicità di queste cose qua che è morto quello di colore. Ma che vuol dire non fare troppa pubblicità? Non ho capito. Fammi finire. Io, quando sono venuta in Italia, a me mi dicevano sporca negra. Cosa devo fare? Dire grazie? No, non ho capito, perché tu che sei nera... io sono mulatta. Sei mulatta, dunque? Sì, sono cioccolato. Quando sono venuto in Italia, i carabinieri stessi mi dicevano sporca negra. Cosa devo fare? Devo dire grazie? Ma a me, scusa, qua... danno una divisa, sì, e che mi offendono, io sono capace anche di ammazzare. E quello di colore, a me scimmia non me lo dice nessuno. Ma scusa, perché Lucia, sbaglio o tu sei... È un'offesa! No, ma ho capito benissimo. Lucia, però è abbastanza chiaro che se ti danno della scimmia, tu reagisci, ammazzi qualcuno, in galera ci vai tu, no? Quello che ma ti non vado in galera con orgoglio. Ma orgoglio, tu puoi andare pure in galera con orgoglio, ma sempre in galera. Non offendere. Sempre in galera, io non vai. Non offendo nessuno e nessuno mi deve offendere a me. Ma sempre in galera, perché vai, dire però. Dire scimmia a una persona. Sì. A me non sapessero cosa vuol dire scimmia. Sì, ma scusa, non ho capito, Lucia, ma sbaglio o tu sei quella puttana di Pordenone? Sì, sono quella puttana, sì, sono puttana. No, per carità, ma... Perché ho picchiato i carabinieri, perché quando mi fermavano mi dicevano sporca negra, ha capito? Ma quando te lo dicevano sporca negra, Lucia, ma io lo sai che sei... Quando mi chiedevano i documenti, quando vedevano nata a Mogadiscio. Allora, ma scusami, ma tu sei quella del camper? Sei quella del camper? Sì, sono proprio quella. Oh, amore, come stai? Non mi fare pubblicità che non ho bisogno. Come stai, Lucia? Come stai? Sto bene, sono nervosa. Che è successo? Perché a me, guarda, questi... da quando è venuta fuori la Lega, questa scimmia è uscita fuori da quando è uscita la Lega. Perché prima dicevano negro. Dicevano, ma scimmia non ho mai sentito. Cioè, la colpa è dei leghisti. La colpa è dei leghisti e del Parlamento. Senti, Lucia, fanno parlare certa gente. Ma quanti anni hai tu che non mi offendo? No, a me mi dicevano sporca negra. Sì, ho capito. Chi te lo diceva? I carabinieri, la gente? Chi I te carabinieri, lo... sai quante volte l'ho menato io? E mi mandavano in galera. Ma perché i carabinieri ti davano della sporca negra? Non ho capito. Perché era un periodo che quando vedevano, sei di Mogadiscio. Sì, allora? Allora sei negra. No, mi vedi negra? No, no, sei mulatta. Allora, perché no, loro già un conto dire ci sono modi e modi di dire le cose. Anche modi e modi, sei una bella negretta. Allora è una cosa, non è offensiva, ma dirti sporca negra è una cosa offensiva, è come quello stronzo lì che ha detto scimmie, è una cosa disprezzativa. Ma spiegami una cosa, Lucia, ma come va l'attività? Male. Perché male? Insomma. Insomma, spiegami perché. Il camper, per esempio. No, no, perché c'è troppo partite. Troppo? Ah, troppe partite, troppe partite. Troppo pallone, dici te, no? Troppo pallone, stanno dietro ai palloni. Stanno dietro al pallone, dietro. Non vanno più a puttane. Ma d'altra parte, no, amica vanno. Mia, quanti quando finisce il pallone può darsi. Quanti anni hai, questo, Lucia, che non mi ricordo più? Quanti anni hai che non ricordo più? 50. 50 anni? Che sei, somala? Non mi ricordo che sei, somala? Sono mulatta. Sì, ma somala di origine. Mogadiscio. Sì, vabbè, allora somala, insomma. Mio no? Papà è italiano. Cinque... Sai che gli italiani dove vanno ficcano, ecco. Dove vanno ficcano, cioè scopano. Ficcano, insomma. Il biscotto. Ficcano il biscotto, cioè papà italiano e tutti sei... E mamma somala. E mamma somala. E sei venuta in Italia e quando è che ti sei messa... Sono venuta in Italia come profuga. E quando ti sei messa a fare la puttana? Dopo 3 anni. Cioè a quanti anni hai iniziato? Perché avevo bisogno... A quanti anni hai iniziato a fare la troia? A 20. A 20? Cioè 30 anni che fai la puttana? Sì. Beh, amica mia, 30 anni di carriera, onoratissima direi. Ma è possibile che in 30 anni ti sei ridotta ancora al camper? Sei rimasta al camper? Ma almeno sono la prima che c'ho il camper. Ho capito, ma... Sono civilizzata. Ma ce l'hai un coso? Ce l'hai un indirizzo? Cosa? Una casa o no? Ma io c'ho la casa, Però, è Gesù. Che ne so, figli ce n'hai? Figli sì. Quanti? Uno, grande. E lo sa? Sa tutto, naturalmente. Sa tutto. E cosa ne so io se sa? Beh, come non lo sai? Lo vedrai, ti dirà, mamma, che mestiere fai? No, me lo chiede. Non te lo chiede? Può darsi che si immagina, cosa ne so io. Ma spiegami una cosa, Lucia, quanto guadagni al mese tu? A quanto arrivi alla fine del mese? Ma tu perché sempre devi chiedere? Ma è interessante capire perché uno dice magari... Ma perché vuoi fare anche tu? Guarda, oggi giorno... No, io non voglio fare a Pordenone, poi come faccio, amico mio? Il culo va di moda oggi giorno. Sì, vabbè, quello che c'entra, quello che va di moda, quello può darsi no, che va... No, oggi giorno se sei orecchione lavori. Cioè i transessuali tirano, dici? I transessuali lavorano. Lo so, tu invece lavori meno? Io lavoro meno perché sono donna. Appunto, ma quanto fai al mese? Più o meno 3.000, 4.000, 5.000? Al mese le spese. Sì, le spese, vabbè. Cioè, riesci solo a campare, dici? No. Amica mia. Quanti clienti hai fatto oggi? Oggi qualcosina ho fatto. Quanti hai fatto? 2, 3? Quanti ne hai fatti? Insomma. Ma perché ti devo dire 5 ne ho fatti? 5, bene, ma a botte di quanto? 50 euro? 70? Magari. 30 euro? Mamma mia, amica mia. E perché? 30 euro, proprio così, saldi, proprio roba da saldi, eh? Oh, proprio la dai via così a 30 euro. Cosa devo dare? Cioè, le ragazzine che danno per me ancora? Tu dici alla fine se non faccio così non faccio niente, manco quello. Dici. Amica mia, 30 euro. Parenzo c'è, Parenzo. Io lo devo benedire ogni tanto. No, Parenzo è andato via adesso. Lo vedo sempre in onda. Lo vedi? Ma tu non capisci, non lavori mai. Senti la radio, guardi la televisione. Quando sì, è che no, fai? Ma io vedo la replica. Ah, luna di notte. Ecco. Luna di notte. Quando... Però a luna di notte uno dovrebbe lavorare, una come te, o no? No. Non lavori manco a luna di notte? No. Vabbè, quanto hai fatto oggi? 5, 5 per 5. Quante? Lo so, adesso sì. Beh, hai fatto 5 clienti oggi, hai detto. C'è una partita importante. Sì, Francia-Germania, sì, lo so. Dunque, stasera clienti niente, Stasera Nisba. Ma da che Nisba. Io non mi ricordo bene se da te vengono più giovani o più anziani, tutte e due. Io ammiro più i vecchi. Cioè, ammiri in che senso? Hai più clienti vecchi? I preferisco più i vecchi. Perché preferisci i vecchi? Perché i giovani oggigiorno non fanno niente. Cioè in che incominciano senso? A dire ti piace. Come ti piace? Come ti vedono una persona anziana, pensano che io sto dietro a loro ti piace. Cioè, ma come ti dicono ti piace? Scusa, non ho capito. È strano che tu hai 50 anni e ti piacciono più. L'aggeggio. Ma ti piacciono più i clienti anziani? Sì, perché siano sbrigativi. Ah, vanno veloci. Una sputata e via. Una sputata e via. Beh, amica mia, ti adoro, ti adoro. Il camper di Pordenone. Il camper di Pordenone, pure antileghista sei, Lucia. Un bacio, tesoro, ciao. In Lega. Un bacio. Io la Lega la odio. Ti do un bacio, a tesoro. A parte il fatto che la Lega, no, non può vedere né i meridionali. Nei somali, nei somali. E gli extracomunitari. Vabbè, ti do un bacio, tesoro, ti devo salutare adesso. Mi raccomando, sempre. Come si chiama quello lì? Non c'è Parenzo? Amica mia, ti ho detto, sta in televisione. Collegati adesso. Luca, fra poco, adesso è rintracciabile per il momento. Salutamelo, Luca. Te lo saluto, ciao tesoro, ciao amore. Ciao. Oh Marco, senti, mi serve un po' di roba buona, bella, pesante. Ah, non c'è il pusher. Chi è? La zanzara? Vabbè, è uguale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Questa non è la storia della gloria di Roma. A luglio, su History. La zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. A prendersela con Fede, un povero vecchio. Cruciani, sei senza cuore, mi fai cagare. Emilione, non mollare, io provo simpatia per te. Non mollare, cazzo, non mollare. Fai il cazzo che te pare sempre. È come se un bambino dell'Africa dice a Cruciani: ma c'è tutta quell'acqua, porco due, lavate. Emilione, non mollare. Ciao, volevo dire a chi ce l'ha con Fede di andare a fare in culo. Allora, laureato, 60 anni di carriera, prende 8.000 euro, vuol dire che ne ha pagati altrettanti di contributi tutti i santissimi mesi. Che cazzo gli rompete i coglioni a fare? Non ha rubato niente. Poi le idee possono, a me non piacciono le idee di Fede, ha leccato il culo a Berlusconi, io che sono di sinistra, ma su questo qua siete proprio degli infami ad andargli a rompere i coglioni. Emilio, Fede, non c'è proprio rispetto per la gente, guarda. Non c'è proprio rispetto per niente, non c'hai valori, non c'hai niente di niente. Ciao Cruciani, quando Emilio Fede era inviato in Africa per conto della RAI era soprannominato Sciupone l'Africano. Siamo al top. Penso Emilio Fede piscio del lavandino. Penso e piscio. Ah, Emilio, quanto sei un coglione. Eccoci Luca Telese! Peppino! Vabbè, allora... andiamo con gli ascoltatori, dai. Dove andiamo? Simone Roma, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Volevo agganciarmi prima alla telefonata che ha fatto quello straniero. Non so che praticamente Mancini è un vile, se l'è presa insultando che ha sbagliato, dando della scimmia, che loro hanno fatto bene. Allora io faccio la stessa cosa, quando vedo un extracomunitario al semaforo che se la prende con una signora, con una ragazza, che gli appoggia sopra quello per lavare i vetri e fa il prepotente, se non gli dai soldi deve vedere che cosa gli fanno, allora sono giustificato anch'io a menargli, perché quello è un sopruso. No, ma non ho capito bene, non ho capito, spiegami, qual è il legame? E il legame è che quel signore, tanti altri dicono che l'extracomunitario ha fatto bene a menare a Mancini perché ha insultato la moglie, ha fatto bene, allora... che è un insulto. Allora io quando vedo un extracomunitario che fa una prepotenza, soprattutto con le donne, perché questa è una realtà soprattutto di Roma, e ai semafori, che se tu non gli fai lavare il vetro gli danno le botte sulla macchina, sono due cose diverse. Perché è un abuso, questo tu mi fai una prepotenza. Se io ti dico di non lavarmi il vetro, perché tu mi devi dare una botta o gli devi dire stronza o gli devono dire le parolacce? Perché guardate che gli extracomunitari sono molto razzisti, quanto forse lo siamo anche noi, perché poi ci sta questa immigrazione non condivisa. Non ho capito, innanzitutto non sappiamo ancora se il ragazzo nigeriano, il morto, abbia reagito per primo. Abbiamo delle testimonianze. Ho visto, io ho sentito la testimonianza che sì, ha fatto. Ci sono le testimonianze della signora poi, anche qui alla Zanzara. Ma rendiamoci conto che gli hanno fatto poi. No, cioè, no, hanno no. chiuso Facebook. Io. Ma come si permettono? Ma è uno Stato italiano. Vabbè, lasciamo perdere Facebook. Facebook non c'entra con lo Stato italiano. Vabbè, però ma non sul stata minacciata. Cioè, no. Cruciani, ma stiamo allora, Simone, la cosa è molto semplice. Se uno ti dice scimmia di merda, vattene da qui, e poi tu gli dai un pugno, è evidente che la colpa è tua. È nata una risa. Però ancora non sappiamo se la reazione, che la prima reazione è stata dei due nigeriani. Io ho letto anche che adesso non è vero, sempre tramite quei articoli che vengono messi su internet così. Beh, che allora addirittura la signora che mi ha chiamato con una telefonata, altri 15 nigeriani mentre veniva la polizia perché doveva far scoppiare la rissa. Ma no, magari per aiuto avrà chiamato. Ma i 15 nigeriani è che dove, in tutta l'Africa contro una persona, che poi era solo quello che menava, perché gli altri tre amici erano due donne e una. No, però voglio chiedere a Luca, l'avvocato, prima che state ai microfoni da noi, l'avvocato del ragazzo, quello il 39enne ultra affermano, ha detto una cosa secondo me abbastanza incredibile, che la parola scimmia, siccome viene usata dai politici in alcuni casi, si riferiva alla vicenda di Calderoli Chienghe, allora in qualche modo ha istigato, viene considerata normale anche dalle persone che secondo lui sono ignoranti, che guardano la televisione eccetera eccetera. A me pare un po' incredibile il fatto che l'avvocato, forse per giustificare le parole che sono uscite di bocca dal suo assistito, dica una cosa di questo tipo, cioè la colpa sostanzialmente De Calderoli, questo voleva dire, no Luca? Ma qua siamo alla sottocultura della follia. Cioè? Una becerata come quella di Calderoli viene usata come fonte letteraria per giustificare un omicidio. Mi sembra un delirio, anche la telefonata di questo ascoltatore, mi dispiace, ma come si fa? E soprattutto, se non fossero due persone di colore, lui, e fosse una povera ragazza che è stata picchiata nello stesso, uccisa per strada, lui avrebbe gli stessi dubbi, giocherebbe sulle stesse suggestioni. Beh, ma però i dubbi ce li abbiamo, scusami un attimo, se uno ti dice scimmia vattene, scimmia di merda vattene, e dopo tu gli meni, la colpa, scusa, chi è che va in galera, in teoria? Cioè, Stiamo scherzando, adesso questo povero ragazzo, questo Emmanuel, e mi rifiuto di chiamarlo il nigeriano o i nigeriani, questa povera, no, l'avvocato ha detto il nero aveva, il nero ha preso la cosa, l'avvocato ha detto proprio così, il palo l'ha preso il nero, sudicio mestiere, che cercare, vabbè, sudicio mestiere, un'aggressione, che è sudicio mestiere, perché alle volte, ma che vuol dire sudicio mestiere, scusa, è sudicio mestiere dell'avvocato, e spesso deve difendere l'indifendibile. Adesso la vittima diventa carnefice, ma se non fosse nero, noi non crederemmo alla versione del matto, questo ascoltatore suggestionabile non crederebbe alla versione surreale del matto che improvvisamente impazzisce, gli hanno detto soltanto scimmia, diventa violento e uccide una povera vittimella. No, veramente essere ucciso italiano. No, però scusa, tu voi che siete, ma non ho capito, siete sempre così attenti ai fatti. No, ai fatti, a quello che è successo. Perché bisogna escludere la possibilità il che fatto è il morto. No, ma il fatto è anche però come si è arrivati alla morte di questo? Che vuol dire? Come si è arrivati alla morte? Interessante o no? È morto di freddo. Ma non è morto, è morto con un pugno sferrato da uno che tra l'altro faceva anche il pugile. Non è questo il punto. Ma secondo te uno che dice scimmia a una persona ci vuole dialogare? No, non ci vuole dialogare. Lo vuole aggredire. Lo vuole aggredire da quello che risulta verbalmente. Se io ti dico brutto ciccione di merda e tu mi dai una sprangata, chi è che finisce nei guai? No, per capire, chi è che finisce nei guai? Sì, ma se io vengo a dirti negro o scimmia, sì, sto già provando a fare il Ku Klux Klan alla matriciana. Ah, tu dici dunque qualsiasi reazione ammessa. Qualsiasi reazione ammessa. No, ti dico il contrario. No, ma per capire, ti dico di più, cioè ti dico, se uno va a dire negro a uno che passa per strada, cioè, vuol dire che già lo vuole accoppare, dai. Ah, per cui è uguale, va bene, ho capito, per te è uguale allora, se tu dici negro di merda, eccetera, e poi uno ti dà uno schiaffo, è uguale, la reazione fisica è uguale, va bene, ragazzi, ma se decidiamo che è così, va bene. Sto dicendo un percorso di verosimiglianza, che uno va a dire a uno negro di merda, tale da mollare con un cazzotto, ammazzare uno, vuol dire che sta pensando già ad accopparlo. Vabbè, Guido da Padova, dai, Guido. Guido, pronto? Dimmi. Sì. No, nulla, ho sentito un po' l'intervista. Nulla, interviene e dici nulla, qualcosa avrai da dire, no? Altrimenti non chiamavi, nulla. Nulla sono che profondamente contrariato con il parere della maggior parte delle persone che ho sentito questa sera. Io sei contrariato, bene, sì, teniamone conto. Dunque? Sono estremamente contrariato. Penso che vada valutato chi ha agito per primo, se sussistono o meno i requisiti per la legittima difesa. Se è stato il nigeriano a colpire per primo, oppure se è stato, se sono state le 5 persone a colpire il nigeriano. Comunque no, 5 che 5 5 di che state? Ma no, una che 5 ah, una vabbè. Vabbè, non sei un cazzo, c'hai Guido, ciao. Oh, ragazzi, per staccarci un attimo da fermo, a Roma, con la scusa delle quote rosa, caro Luca, con la scusa delle quote rosa, hanno fatto fuori la Raggi, ha fatto fuori lo Cicero. È una cosa incredibile, secondo me. Lo Cicero che era stato. Ma lo Cicero si era visto che era un tipetto. Ma però, del video, però, ragazzi. Sto facendo il video, è un po' sbroccheggiato, dai. Ma no, ma che vuol dire ha sbroccheggiato? Si faceva 4-5 puntate. I Frocetti, forse una posizione in una sua biografia, una posizione troppo favorevole alle Olimpiadi, forse, e quello Zingari di merda in quel video lo hanno certamente messo in una condizione difficile. Però poi hanno trovato la scusa della quota rosa, dicessero chiaramente che la Raggi non l'ha voluto fare assessore per le cose che l'hanno sono uscite fuori. L'hanno fatto fuori perché era indifendibile e temevano che facesse gap. Adesso invece ti faccio sentire un ascoltatore che ieri, appena è scoppiato il caso del nigeriano, ha detto delle cose terribili. No, ma senti, Davide da Pescara si chiama, eh. Partiamo, Davide da Pescara, vai. Davide Pescara, vai. Ciao, buonasera, Cruciani. Dimmi, Davide, dimmi. Allora, volevo dire qualcosa, la mia, senza offendere nessuno. E senza su che cosa? Offeso, su che cosa? Su quanto riguarda il pestaggio dell'italiano all'extracomunitario. Sì. Allora? Allora, per me gli hanno fatto poco, perché io... Come gli hanno fatto poco? Scusami. Fammi finire di parlare. Chi è questo? Allora, io oltre a pestarlo l'avrei anche messo dentro una vasca con centinaia di litri di ammoniaca. Ancora, Davide, non ho capito una cosa. Questo qua è in coma adesso, questo signore, Emanuel. Ma deve morire entro stasera, se così imparano. Passi all'azione tu, che fai? Davide. Lei è talmente scimmia che non ha neanche capito l'episodio che è avvenuto a Fermo. Un italiano ha preso... Io quando ti vedo per televisione, è un complimento. Tu sei un cretino. Un italiano, un ultras per la esattezza. Tu sei un aborto. Fermi, ragazzi. Sbagliato. Davide, resta lì. Tu sei nato dal culo, nano. Hai piacere che è morto. Certo, ma che vuol dire ognuno a casa sua? Non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Queste persone, questi zingari, questi devono andare fuori da questo Italia. Era nigeriano, non zingaro. Ho capito, non ma questo. Zingaro, quello tutto nel buon faccio. Tutto nel buon faccio, benissimo. Allora, praticamente dei signori chiamano scimmia una ragazza. Questo reagisce. Sono stato chiamato pure io scimmia dal tuo collega. Io non reagisco perché ho capito, non ma l'hanno ammazzato. Ma l'hanno ammazzato. Io la penso così, vi volete denunciare? No, io non denuncio nessuno, a me non me ne frega niente. Cioè, allora, però... io sono un razzista e sono un amante quello che, di Mussolini. Per quello che... Sei pure un amante di Mussolini? Sì, io sono un fascista nero. Allora Luca, io chiuderei con Maurizio da Bari. Maurizio da Bari. Questi qua. Che devi fare? Questi poveretti che gridano rabbia. Stai facendo un'indagine sociologica sulla feccia umana. Meno male che lo dici. Meno male che lo dici. Maurizio da Bari, vai, Maurizio. Eccomi qua. Dimmi. Ciao Cruciani. Allora, mi sono sentito di intervenire al tuo programma in quanto paradossalmente oggi è successo un inedito molto similare. Però cioè, che è successo? Filippo. In questa maniera sono andato a mare con mia moglie a Bari, sì. Siamo andati in spiaggia praticamente, mia moglie dopo un po' che stavamo prendendo il sole si è levata praticamente la parte di sopra mettendosi in topless. Vabbè, normale. Dunque... con molta tranquillità. La spiaggia era piena di rumeni, rom, erano quasi tutti stranieri, finti, non e che cazzo ci sei andato a fare, scusa? Sto a Bari. Vabbè, comunque sei andato lì, tra rumeni, rom, eccetera, eccetera, dunque? Perfetto, hanno incominciato, una ragazza di 18 anni ha guardato mia moglie e ha cominciato a dire sei una puttana, sei una troia, copriti e mettiti subito il reggiseno. Io con molta franchezza l'ha gridato a distanza, ho detto mia moglie lascia perdere, stai tranquilla. C'erano tanti della loro festa. Ma perché vuoi raccontare questa cosa? Non ho capito perché vuoi raccontare questo. No, perché? Perché se noi volessimo, tra virgolette, dire la questione di... perché non hai reagito, dici, perché non hai reagito. Non ho reagito, io potevo andare lì e fare un casino, prendere appunti. Ciao ragazzi, a domani, ciao. Radio 24, la passione. si sente.